Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Quando raggiunsi l'età di 17 anni, i miei genitori decisero che mi iscrivessi all'università di Ingolstadt. Fino ad allora avevo frequentato le scuole di Ginevra, ma mio padre riteneva necessario che per completare la mia educazione io conoscessi costumi diversi da quelli del mio paese natale. La mia partenza fu quindi fissata a breve scadenza, ma prima che arrivasse il giorno stabilito avvenne la prima sciagura della mia vita. Quasi un presagio della mia infelicità futura. Elizabeth era stata colpita da scarlattina in forma grave ed era in pericolo di vita. Durante il suo isolamento avevamo cercato in tutti i modi di dissuadere mia madre dal prendersi cura di lei. Dapprima ella aveva ceduto alle nostre preghiere, ma non appena seppe che la vita della sua prediletta era minacciata, non riuscì a dominare l'ansia. Si mise al suo capezzale e le sue cure ebbero la meglio sulla violenza della malattia. Elizabeth fu salva, ma le conseguenze di questa imprudenza furono fatali per la salvatrice. Dopo 3 giorni mia madre si ammalò. La febbre era accompagnata dai sintomi più allarmanti e l'espressione dei medici curanti fece prevedere il peggio. Nemmeno sul letto di morte vennero a mancare a quella donna ammirevole coraggio e dolcezza. Congiunse la mano di Elisabetta alla mia e disse: «Figli miei, le mie più salde speranze di futura felicità si fondavano sull'idea della vostra unione. Tale certezza sarà ora la consolazione di vostro padre. Elizabeth, amore mio, tu devi prendere il mio posto e avere cura dei miei bambini più piccoli. Ahimè, non rimpiango di venire separata da voi. Felice e amata come sono stata, non è forse duro lasciarvi? Ma questi sono pensieri indegni di me. Cercherò di rassegnarmi serenamente alla morte nella speranza di incontrarvi in un altro mondo». Spirò dolcemente. Il suo volto esprimeva affetto anche nella morte. Inutile che descrive i sentimenti di coloro che si vedono troncare i vincoli più cari dalla più irreparabile delle sciagure. Il vuoto che si crea nell'anima, la disperazione che traspare dal viso. Occorre molto tempo per persuadersi che colei che vedevamo ogni giorno, colei la cui esistenza sembrava parte della nostra, se ne sia andata davvero per sempre, che la luce degli occhi amati può essersi spenta, che il suono di una voce così familiare e cara all'orecchio può essersi taciuto per non essere udito mai più. Queste sono le riflessioni dei primi giorni, ma quando il passare del tempo rende più evidente la realtà della sciagura, allora inizia la vera amarezza del dolore. Ma a chi questa mano crudele non ha strappato qualche persona amata? Perché descrivere un affanno che tutti abbiamo provato e dobbiamo provare? Ma viene poi il momento in cui il dolore è più che una necessità, è un lasciarsi andare. E il sorriso che gioca sulle labbra non viene più bandito, anche se può essere considerato sacrilegio. Mia madre era morta, ma noi Avevamo ancora doveri cui attendere, dovevamo continuare a vivere con quanto ci rimaneva e imparare a considerarci fortunati di avere ancora qualcuno che la predatrice non aveva afferrato. La data del mio viaggio a Ingolstadt, che era stata differita in seguito a questi avvenimenti, venne fissata di nuovo. Ottenni da mio padre un rinvio di qualche settimana. Mi sembrava un'eresia lasciare così presto la quiete, così simile alla morte della casa in lutto, e gettarmi nel tumulto della vita. Ero nuovo al dolore, ma non per questo esso mi allarmò meno. Non mi sentivo di perdere di vista coloro che mi rimanevano, e soprattutto desideravo vedere la mia dolce Elisabeth un po' riconfortata. Ella in effetti nascondeva il suo dolore e si sforzava di confortare tutti noi. Guardava alla vita con fermezza e se ne assumeva gli oneri con zelo e coraggio. Si dedicava totalmente a coloro che le era stato insegnato a chiamare zio e cugini. Non fu mai così incantevole come in quel periodo, in cui si sforzava di ritrovare la luminosità del suo sorriso e farlo splendere su di noi. Dimenticò persino il proprio dolore nello sforzo di farci dimenticare il nostro. Giunse alla fine il giorno della mia partenza. Clerval trascorse con noi l'ultima sera. Aveva tentato di persuadere suo padre a permettergli di accompagnarmi, diventare mio compagno di studi, ma invano. Suo padre era un commerciante di strette vedute che nelle aspirazioni e nell'ambizione del figlio vedeva solo pigrizia e rovina. Henri era profondamente spiaciuto della sfortuna di essere privato di un'educazione liberale. Non parlò molto, ma quando lo fece, lessi in quegli occhi accesi e nel suo sguardo animato una volontà trattenuta, ma ferma, di non restare incatenato ai meschini dettagli del commercio. Restammo alzati fino a tarda ora. Non riuscivamo a separarci né a pronunciare la parola addio. Infine, fu detta, e ci ritirammo, fingendo di avere bisogno di riposo, ciascuno illudendosi di aver ingannato gli altri, ma quando all'alba scesi per montare sulla carrozza che mi avrebbe portato via, erano tutti lì. Mio padre, per benedirmi di nuovo, Clerval, a stringermi di nuovo la mano, la mia Elisabeth, per rinnovare la raccomandazione di scrivere spesso e per prestare le ultime cure femminili al suo amico e compagno di giochi. Mi lasciai cadere sulla carrozza che doveva condurmi tanto lontano e mi abbandonai alle più malinconiche riflessioni. Io, che ero sempre stato circondato di compagni affettuosi, sempre in gara per compiacersi a vicenda, ora ero solo. All'università dove mi stavo recando avrei dovuto trovarmi degli amici e imparare a proteggermi da me. La mia vita era stata fino allora ritirata e casalinga, e ciò mi aveva ispirato un'invincibile ripugnanza per i volti nuovi. Amavo i miei fratelli. Elisabeth e Clerval, questi erano vecchi visi familiari, ma mi credevo totalmente inadatto alla compagnia di sconosciuti. Tali erano le mie riflessioni all'inizio del viaggio, ma via via che esso procedeva, il mio coraggio e le mie speranze ripresero vigore. Desideravo ardentemente allargare il mio sapere. Spesso a casa era stato difficile per me trascorrere la giovinezza confinato sempre nello stesso luogo, e avevo sentito il desiderio di entrare nel mondo e di occupare il mio posto fra gli altri esseri umani. Ora che i miei voti si avveravano, sarebbe stata una vera follia pentirsene. Durante il viaggio fino a Ingolstadt, che fu lungo e faticoso, ebbi agio di riflettere su queste e molte altre cose. Alla fine i miei occhi scorsero il campanile alto e candido della città. Scesi dalla carrozza e fui accompagnato alle mie stanze solitarie perché trascorressi la sera come meglio mi piaceva. Il mattino seguente, munito delle mie lettere di presentazione, feci visita ad alcuni dei professori più importanti. Il caso, o piuttosto l'influenza maligna, l'angelo della distruzione, che affermò il suo dominio onnipotente su di me dal momento in cui mossi i miei passi riluttanti dalla soglia della casa di mio padre. Mi portò per primo dal signor Krempe, professore di filosofia naturale. Era un uomo rozzo, ma conosceva molto bene i segreti della sua scienza. Mi pose diverse domande circa i miei progressi nelle diverse discipline che si ricollegavano alla filosofia naturale. Risposi senza riflettere, con un certo disprezzo feci i nomi dei miei alchimisti come i principali autori che avevo studiato. Il professore parve sbalordito. «Davvero avete perso tempo a studiare quelle sciocchezze?» Io risposi affermativamente. «Ogni minuto», continuò il signor Krempe con calore, «ogni istante che avete sciupato su quei libri è interamente e irrimediabilmente perduto. Avete oberato la vostra memoria di storie superate e di nomenclature inutili. Buon Dio, ma in quale deserto siete vissuto perché non vi fosse nessuno a informarvi che le fantasie di cui vi siete così avidamente pasciuto sono vecchie di 1000 anni e altrettanto ammuffite? Mai mi sarei aspettato di trovare un discepolo di Paracelso, di Alberto Magno nella nostra epoca illuminata e scientifica, caro signore. Dovete cominciare da capo i vostri studi». E così dicendo si allontanò, scrisse un elenco di libri sulla filosofia naturale che desiderava mi procurassi e mi accomiatò dopo avermi comunicato che la settimana seguente avrebbe dato inizio a un corso di filosofia naturale e che il signor Waldman, suo collega, ci avrebbe tenuto lezioni di chimica a giorni alterni ai suoi. Tornai a casa non deluso, perché, come ho detto, da lungo tempo consideravo inutili quegli autori che il professore aveva stigmatizzato, ma poco incline a dedicarmi a quegli studi. Il signor Krempe era un ometto rozzo, dalla voce aspra e l'aspetto ripugnante. Il maestro dunque non mi dispose a favore della dottrina. In forma forse troppo filosofica e coerente ho dato un resoconto delle conclusioni a cui ero giunto a questo proposito in gioventù. Da ragazzo non mi ero accontentato dei risultati promessi dai moderni professori di scienze naturali. Con una confusione di idee giustificata solo dalla mia estrema giovinezza e dal bisogno di una guida in quel genere di materie, avevo seguito a ritroso i passi della conoscenza lungo i sentieri del tempo e avevo sostituito le scoperte dei ricercatori moderni con i sogni di alchimisti dimenticati. Inoltre disprezzavo gli usi della filosofia naturale moderna. Era molto diverso quando i maestri della scienza ricercavano l'immortalità e il potere. Tali visioni, per quanto vane, erano grandiose. Ma ora la scena era cambiata. L'ambizione del ricercatore sembrava limitarsi ad annullare le visioni sulle quali si fondava principalmente il mio interesse per la scienza. Mi veniva richiesto di barattare chimere di grandezza infinita con realtà di poco valore. Tali furono le mie riflessioni durante i primi 2 o 3 giorni di soggiorno a Ingolstadt, trascorsi soprattutto a familiarizzarmi con i luoghi e le persone più importanti della mia nuova residenza. Ma all'inizio della settimana seguente pensai all'informazione che il signor Krempe mi aveva dato circa le lezioni, e per quanto non avessi la minima voglia di sentire quell'ometto pieno di sé dettare sentenze da una cattedra, ricordai quello che mi aveva detto del signor Waldman, che non avevo visto perché era stato fuori città, in parte per curiosità, in parte per occupare il tempo. Mi recai nell'aula, dove poco dopo fece il suo ingresso il signor Waldman. Questo professore era molto diverso dal suo collega. Dimostrava una 50ina di anni e il suo volto esprimeva la più grande benevolenza. I pochi capelli che gli coprivano le tempie erano grigi, mentre quelli sulla nuca erano quasi neri. Piccolo di persona, ma di portamento eretto. Aveva la voce più dolce che avessi mai udito. Iniziò la lezione ricapitolando la storia della chimica e i molti progressi fatti a opera di diversi scienziati, i più importanti dei quali citò con fervore. Diede poi una rapida scorsa allo stato attuale di questa scienza e spiegò molti dei suoi principi più elementari. Dopo aver eseguito alcuni esperimenti introduttivi, concluse con un elogio della chimica moderna che non potrò mai dimenticare. «Gli antichi maestri di questa scienza, disse, promettevano cose inattuabili senza mai giungere a nulla. I ricercatori moderni promettono poco. Sanno che i metalli non possono trasformarsi, che l'elisir di lunga vita è una chimera. Ma questi filosofi, le cui mani sembrano fatte unicamente per rimestare nel sudiciume, e cui occhi sembrano destinati ad affaticarsi sul microscopio o sul crogiuolo, hanno in effetti compiuto dei veri miracoli. Penetrano nei recessi della natura e ne rendono noto l'intimo lavorio. Salgono nei cieli. Hanno scoperto come il sangue circola e hanno individuato la composizione dell'aria che respiriamo. Hanno conquistato poteri nuovi e quasi illimitati. Possono comandare i fulmini del cielo, imitare il terremoto e persino prendersi gioco del mondo invisibile con tutte le sue ombre. Tali furono le parole del professore, o piuttosto dovrei dire del fato, pronunciate per distruggermi. Mentre continuava, sentivo come se la mia anima stesse lottando con un nemico in carne e ossa. Una per una vennero toccate le varie corde che formavano il meccanismo del mio essere. Venne fatta vibrare una corda dopo l'altra, e in breve la mia mente fu colma di un unico pensiero, un'unica concezione, un unico scopo. «Tanto è stato fatto!» esclamò l'animo di Frankenstein. «Ma molto, molto di più! Realizzerò io! Ripercorrendo i passi già percorsi, aprirò una nuova via, esplorerò poteri sconosciuti e rivelerò al mondo i più profondi misteri della creazione!» Io quella notte non chiusi occhio. Il mio essere interiore era in tumulto e agitazione, sentivo che ne sarebbe nato un ordine, ma non avevo il potere di produrlo. A poco, subito dopo l'alba, giunse il sonno. Mi svegliai e i pensieri della notte precedente erano come un sogno. Rimaneva solo la determinazione di riprendere i miei vecchi studi e di dedicarmi a una scienza per la quale credevo di possedere un talento naturale. Quello stesso giorno feci visita al signor Waldman. In privato i suoi modi erano ancora più gentili e affascinanti che in pubblico, perché nel suo contegno durante la lezione c'era una certa dignità, mentre in casa subentravano affabilità e cortesia. Gli feci pressappoco lo stesso resoconto dei miei studi precedenti che avevo fatto al suo collega. Egli ascoltò con attenzione il breve riepilogo e sorrise ai nomi di Cornelio Agrippa e di Paracelso, ma senza il disprezzo mostrato dal signor Krempe. Disse che si trattava di uomini al cui infaticabile zelo i moderni filosofi andavano debitori di quasi tutte le basi del loro sapere. Ci hanno lasciato il compito più facile, di dare nomi nuovi e di disporre in sistematiche classificazioni i fatti che in gran parte sono riusciti a portare alla luce. Le fatiche degli uomini di genio, anche se battono una strada sbagliata, non mancano mai di recare in ultima analisi sostanziali vantaggi all'umanità. Ascoltai attentamente tali parole che egli pronunziò senza presunzione né ostentazione. Poi confidai che la sua lezione aveva vinto i miei pregiudizi sulla chimica moderna. Mi espressi in termini immisurati, con la modestia e la deferenza dovute da parte di un giovane al suo insegnante, senza lasciare trapelare. Mi sarei vergognato di mostrare la mia ingenuità, l'entusiasmo che mi stimolava al lavoro che intendevo intraprendere. Gli chiesi consiglio circa i libri che avrei dovuto procurarmi. «Sono lieto», disse il signor Baldwin. «Sono lieto di essermi guadagnato un discepolo. E se la vostra applicazione sarà pari alla vostra intelligenza, non dubito della vostra riuscita. La chimica è quella branca della filosofia naturale in cui sono stati fatti e sono tuttora possibili i più grandi progressi. Per questo mi sono dedicato particolarmente al suo studio, senza tuttavia trascurare gli altri rami della scienza. Diventerebbe un ben misero chimico che si limitasse unicamente a questo campo del sapere umano. Se desiderate davvero essere un uomo di scienza e non uno sperimentatore di poco conto, vi consiglio di applicarvi a ogni ramo della filosofia naturale, compresa la matematica. Mi condusse poi nel laboratorio e mi spiegò l'uso dei vari apparecchi, mostrandomi quali avrei dovuto procurarmi e promettendomi che mi avrebbe lasciato adoperare i suoi quando avessi fatto abbastanza progressi da non guastarne i meccanismi. Mi diede anche l'elenco dei libri che gli avevo richiesto e dopodiché mi accomiatai. Così terminò una giornata per me memorabile, che decise del mio avvenire.